seconda edizione di Documentaire, la rassegna a cura dell'associazione Documentaristi Emilia-Romagna, che promuove all'estero il cinema appunto di questa regione. Noi siamo qui per parlarne con Enza Negroni, la presidente. Quindi buongiorno Enza e bentornata ai microfoni di Radio Città Fusico. Buongiorno a tutti. Quest'anno, come dicevamo, appunto la seconda edizione si struttura in tre momenti diversi. Quali sono? Innanzitutto si è partiti il 15 ottobre e sarà fino al 22 ottobre sulla piattaforma docacasa.it la possibilità di visione gratuita, senza nessuna iscrizione al sito, di 8 documentari di autori e produttori dell'Emilia Romagna che trattano varie tematiche, dalla cultura alla biografia, alla società, alla storia, e quindi una vasta scelta per un pubblico che ha voglia di visionare documentari comodamente a casa. La seconda parte invece viene strutturata a Zurigo e a Bellinzona, dove in vari luoghi della città vengono proiettati altri documentari, sempre su queste tematiche di autori emiliano-romagnoli. E poi ci sarà anche a Zurigo tre workshop con proiezioni all'interno di un liceo. Questa è veramente una novità, il liceo Veramigli di Zurigo, dove i tre autori potranno avere la possibilità di fare un workshop con i ragazzi del liceo e la visione di un film. Appunto, dicevamo, la novità di quest'anno è anche la collaborazione con Zurigo, e volevo chiederti, Enza, com'è nata questa appunto collaborazione? La collaborazione è nata perché una nostra socia, il responsabile del progetto, Alessandra Cesari, vive da alcuni anni a Zurigo. In questo modo ha avuto la possibilità di contattare in loco i vari istituti di cultura, i licei, questi luoghi dove si faranno le proiezioni, e quindi avere una persona all'estero, in questo caso nella Svizzera, diciamo la Svizzera tedesca, che lavora per, diciamo, allargare la rassegna, quindi non solo online ma con delle proiezioni fisiche, è fondamentale, perché spesso la presenza fisica negli incontri, nelle riunioni, come tutti sappiamo, è fondamentale. Certo, assolutamente. Tra l'altro quest'anno come altra scelta è ritornata quella della gratuità dell'evento, perché si può andare su docacasa.it e appunto comodamente vedere da casa tutti i vari documentari in lista. Esatto, infatti alcune rassegne le avevamo fatte a pagamento, ma Documentaire invece è proprio una rassegna online gratuita. La piattaforma rimane comunque a disposizione per altri eventi che noi ospitiamo, come un festival a mente locale, e quindi abbiamo anche altre attività sulla piattaforma. Però questa settimana, dal 15 al 22, ci sono questi 8 film da vedere. Possiamo fare magari il nome di qualche film per incuriosire chi ci ascolta? Ma innanzitutto c'è Einstein parla italiano, che è un lavoro di Alessandro Scillitani, ed è particolarmente legato a Bologna perché è la storia di quando Einstein venne a fare alcune lezioni proprio all'Archiginnasio, e si racconta questa storia dove lui, insomma, crea un legame con la nostra città, e quindi è veramente un inedito. Poi abbiamo un documentario di Elisa Mereghetti e Marco Mensa su Reggiano, che si intitola In tal fed, ed è, diciamo, più legato alla musica, alla musicalità e ai suoni e alle musiche dell'Appennino reggiano. Inoltre c'è anche il mio documentario, si intitola Scarti Rinati, che invece racconta di luoghi legati all'architettura che si sono convertiti da spazi fabbriche in luoghi della cultura, quindi musei, auditori musicali. A Bologna abbiamo per esempio la storia di Mambo, che cos'era una volta la nostra galleria d'arte, e poi abbiamo per esempio a Reggio Emilia la Fonderia 39, che era un'ex fonderia e che oggi invece è un luogo di danza. Perfetto, quindi insomma ci saranno questi ma anche altri, ricordiamo fino al 22 ottobre sulla piattaforma doccacasa.it. Io Enzo ti ringrazio come sempre per averci raccontato questa seconda edizione di Documentaire e ci sentiremo insomma per i prossimi documentari, grazie. Grazie a voi e ringrazio anche la consulta degli Emiliano Romagnoli che ci ha permesso di realizzare questo progetto.